Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Un saluto da Maurizio Melis. In materia di imballaggi, ridurre i rifiuti significa soprattutto progettare gli imballaggi affinché si possano inserire facilmente in quella che noi oggi chiamiamo economia circolare. Ogni anno il CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia le aziende che si sono distinte in questo senso e questo è proprio lo scopo del bando prevenzione CONAI, 400.000 euro di budget quest'anno, in cui i vincitori sono stati annunciati pochi giorni fa presso la Triennale di Milano. Ed è proprio di due delle esperienze premiate, numerose esperienze premiate, che parleremo questa sera qui a Smart City. La prima riguarda l'azienda Antonio Sada e Fidi, che è stata premiata per un innovativo imballaggio in cartone che fa uso di grafene come additivo. Ci facciamo spiegare tutto dalla responsabile della comunicazione del gruppo Sada, Valentina Sada. Chissà come mai questo cognome. Buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera Sada. Senta, allora, cartone additivato con grafene, se ci spiega un po' meglio l'oggetto e naturalmente quali vantaggi offre. Sì, noi abbiamo deciso, di migliorare i nostri processi e lo abbiamo fatto inserendo all'interno della colla ad amido che è necessaria per l'ondulazione delle carte in bobina che formano il cartone ondulato, inserendo un additivo al grafene. Questo additivo al grafene ha portato dei risultati davvero molto incoraggianti, in quanto ha migliorato l'incollaggio delle carte e ridotto di tanto gli scarti. Nel caso specifico, utilizzando alcune carte trattate, queste avevano purtroppo questo fenomeno di scollato. Ci sono alcune carte che utilizzate per degli imballaggi magari con delle proprietà particolari che sono difficili da incollare, più della carta normale. Male, no? Esattamente, il grafene ci ha aiutato a ridurre di tanto lo scarto, in quanto le carte si incollano molto molto meglio. Molto meglio. Nel caso specifico, per queste carte trattate di cui parlavamo prima, abbiamo il meno 56% di scarti, che è davvero un numero importante. Senta, come siete arrivati a questa soluzione? Noi facciamo parte di un network europeo che si chiama Blue Box Partners, ha circa 70 stabilimenti in tutta Europa e i nostri cugini, ecco, spagnoli, chiamiamoli così, già la utilizzavano e nello scambio di informazioni che facciamo comunque con questi stabilimenti in merito alla ricerca, allo sviluppo e alle innovazioni, ci è sembrato davvero bello poter portare anche noi questa bella innovazione, questa bella storia anche da raccontare a voi. Grazie, grazie Valentina Sada. Grazie a voi. Altra realtà premiata Ecomondo è stata Pedon, azienda di trasformazione alimentare che commercializza, lavora legumi e che ha messo a punto con i propri fornitori un imballaggio innovativo. Parliamo sempre di cartone, che utilizza come materia prima scarti di produzione dell'azienda stessa. Ne parliamo con l'amministratore delegato Remo Pedon. Buonasera Pedon. Buonasera. Allora, senta, ci descriva con qualche dettaglio in più qual è l'elemento innovativo. Beh, noi siamo partiti con questo progetto coinvolgendo i nostri fornitori perché avevamo l'idea che di poter utilizzare i nostri scarti di lavorazione. Noi facciamo legumi, cereali e semi, e utilizzare i nostri scarti di legumi per produrre gli astucci che noi utilizziamo come packaging per i nostri prodotti. Sono dei cartoni fondamentalmente, no? Sì, sì, sono di cartoncino, per cui dove noi è il nostro packaging per quanto riguarda... I classici cartoni, un po' come quelli in cui normalmente troviamo la pasta, o troviamo il riso, o troviamo questo tipo di prodotti, appunto, tipicamente. E coinvolgendo i nostri fornitori, abbiamo il progetto nasce e alla fine siamo arrivati di poter utilizzare questi scarti di lavorazione per metterli assieme all'impasto della cellulosa pura e siamo riusciti a utilizzare ben il 15% di scarto della nostra lavorazione riducendo per cui l'utilizzo di cellulosa all'85%. All'85%, avete ridotto anche equivalentemente le emissioni di CO2, circa il 20% di riduzione di CO2. Senta, questo imballaggio costa di più o costa di meno del vecchio imballaggio? Beh, questo imballaggio costa in questo momento, costa di più perché non è una lavorazione standard, certo. È una lavorazione che viene fatta esclusivamente per noi, per cui ovviamente costa di più. Però ci sono dei vantaggi, no? Beh, i vantaggi sono che alla fine noi non abbiamo, utilizziamo i scarti di lavorazione, per cui non dobbiamo smaltire i nostri scarti. Avete meno scarti, certo, certo. Esattamente, e poi ci piace anche a livello di filosofia che lo scarto della nostra lavorazione possa essere ancora introdotto nella lavorazione stessa, in questo caso nel confezionamento dei nostri prodotti. Non c'è dubbio oggi che ci sia anche un'attenzione da parte del pubblico per questo tipo di attenzione per l'ambiente, però insomma diciamo che il costo maggiorato della confezione viene più o meno bilanciato da una diminuzione dei costi di smaltimento dei rifiuti. Senta, il progetto come è nato? È nato da un vostro impulso diretto o insomma avete sentito parlare, come nel caso precedente, di qualcosa di simile già fatto da altri? Ma noi avevamo sentito che per altri prodotti c'era stata la possibilità di produrre cartone, cartoncino, per cui abbiamo coinvolto i nostri fornitori, certo. E poi alla fine abbiamo selezionato quelli che hanno creduto in questo progetto fino ad arrivare poi all'esecuzione finale. Va bene, grazie a Remo Pedon. Grazie a voi, buona serata. Dunque abbiamo ancora qualche minuto e lo spenderei per raccontarvi cosa sta dietro al bando prevenzione del CONAI, che in pratica assegna i premi sulla base di un algoritmo di calcolo che tiene conto di diversi parametri, e quindi capire questi parametri ci consente anche un po' di capire quali sono le possibili strategie per ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi. CONAI infatti al suo tempo ne identificò 7. Si parte con la riduzione del materiale utilizzato per realizzare l'imballaggio, alla sostituzione di questo materiale con altri biodegradabili o comunque più sostenibili per l'ambiente. Altri parametri riguardano invece la progettazione dell'imballaggio in funzione di possibili riutilizzi. In alcuni paesi, per fare un caso un po' estremo, pensate che si utilizzano bottiglie di vetro con un profilo di parallelepipedo per addirittura realizzare abitazioni o strutture in muratura. Ecco, dicevo, in funzione di possibili utilizzi, oppure della ottimizzazione del trasporto, oppure di altri aspetti della logistica, o ancora, nel caso degli imballi multimateriale, in funzione delle operazioni richieste per separare i vari componenti. Meno sono, più semplici sono queste operazioni e meglio è. Infine viene valutata l'eventuale semplificazione dell'imballo con l'eliminazione di almeno un componente, e per concludere anche l'ottimizzazione del processo produttivo, che quindi non interviene sull'imballo ma solo su come viene prodotto, come viene realizzato. Insomma, diverse strategie, ognuna col suo peso, e che in molti casi possono anche convivere. È davvero tutto, ci fermiamo qui, appuntamento a lunedì, buon fine settimana.